Garam Masala. Garam Masala, il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. We'll be right back. Garam Masala, Funk Soul, Afrodisco Classica, Re-edit House e Deep House. Garam Masala con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. We'll be right back. Garam Masala.